E il problema della possibile redenzione? La minore era dimostrata dalla maggiore. Quali svariate caratteristiche delle costellazioni furono volta a volta considerate? Gli svariati colori denotanti svariati gradi di vitalità: bianco, giallo, cremisi, vermiglio, cinabro. I loro gradi di splendore. Le loro grandezze visibili a occhio nudo fino a e compresa la settima. Le loro posizioni: l'auriga, la via di Walsingham, il carro di David, gli anelli di Saturno, il condensarsi delle nebulose spirali in soli, le rivoluzioni interdipendenti dei soli doppi, le indipendenti scoperte sincrone di Galileo, Simon Marius, Piazzi, Le Verrier, Herschel, Gall. Le sistematizzazioni tentate da Bode e Keplero dei cubi delle distanze e dei quadrati dei tempi di rivoluzione. La quasi infinita comprimibilità delle comete caudate e le loro vaste orbite ellittiche, eccentriche e concentriche dal perielio all'afelio. L'origine siderale dei meteoriti. Le inondazioni libiche su Marte intorno all'epoca della nascita del minore dei due astroscopi. Il ricorso annuale di piogge meteoriche verso il giorno di San Lorenzo, martire 10 agosto. Il ricorso mensile, noto come la luna nuova con la luna vecchia tra le braccia. Il supposto influsso dei corpi celesti su quelli umani. L'apparizione di una stella, prima grandezza, di estremo splendore, visibile di giorno e di notte, un nuovo sole luminoso generato dalla collisione e dall'amalgama in incandescenza di due non luminosi ex soli, attorno all'epoca della nascita di William Shakespeare, nel delta della costellazione reclina di Cassiopea, che mai non tramonta, e di una stella, seconda grandezza, di origine analoga ma di minor splendore, che era apparsa nella e scomparsa dalla costellazione della Corona Septentrionalis circa al tempo della nascita di Leopold Bloom, e di altre stelle di, presumibilmente, analoga origine, che erano, effettivamente o presumibilmente, apparse nella e scomparse dalla costellazione di Andromeda attorno al tempo della nascita di Stephen Dedalus, e nella e dalla costellazione dell'Auriga alcuni anni dopo la nascita e la morte di Rudolf Blum Jr. E dentro e fuori da altre costellazioni alcuni anni prima o dopo la nascita o la morte di altre persone. I fenomeni concomitanti di eclissi solari e lunari, dall'interposizione alla riapparizione, la diminuzione del vento, lo spostamento dell'ombra, la taciturnità dei pennuti, l'apparire di animali crepuscolari o notturni, la persistenza della luce infernale, l'oscurità delle acque terrestri, il pallore degli esseri umani. La sua, di Bloom, conclusione logica, soppesata la questione e salvo eventuali errori? Che non era un albero celeste, né un celeste speco, né un animale celeste, né un uomo celeste, che era un'utopia, non essendoci alcun metodo noto dal noto all'ignoto, un infinito che poteva essere reso ugualmente finito dalla suppositiva apposizione di uno o più corpi ugualmente della stessa e di differenti grandezze, una mobilità di forme illusorie immobilizzate nello spazio, rimobilizzate nell'aria, un passato che probabilmente aveva cessato di esistere come presente prima che i suoi spettatori futuri fossero entrati nella loro attuale presente esistenza. Egli era più convinto del valore estetico dello spettacolo? Indubitabilmente, in conseguenza dei reiterati esempi di poeti che nel delirio di una frenesia di attaccamento o nell'umiliazione di essere respinti, invocano le ardenti compassionevoli costellazioni o la frigidità del satellite del loro pianeta. Accettava dunque egli, come articolo di fede, la teoria degli influssi astrologici sui disastri sublunari? Gli sembrava passibile sia di prova sia di confutazione, è la nomenclatura usata nelle carte selenografiche, parimenti attribuibile sia a intuizione verificabile sia a falsa analogia. Il lago dei sogni, il mare delle piogge, il golfo delle rugiade, l'oceano della fecondità. Quali particolari affinità gli sembrava esistessero fra la luna e la donna? La sua antichità nel precedere e sopravvivere a successive generazioni telluriche, la sua dominazione notturna, la sua dipendenza di satellite, il suo riflesso luminare, la costanza in tutte le sue fasi, il sorgere, il tramontare al momento stabilito, luna crescente e calante, l'invariabilità forzata del suo aspetto, la sua risposta indeterminata all'interrogazione non affermativa, il suo influsso sul flusso e riflusso delle acque, il suo potere di far invaghire, di mortificare, di rivestire di bellezza, di rendere folli, di incitare e coadiuvare alla delinquenza, la tranquilla imperscrutabilità del suo volto, la terribilità della sua isolata dominante e implacabile vicinanza, i suoi auspici di tempesta e di bonaccia, lo stimolo della sua luce, del suo movimento e della sua presenza, l'ammonimento dei suoi crateri, i suoi mari aridi, il suo silenzio, il suo splendore, quando visibile, la sua attrazione, quando invisibile. Qual luminoso segno visibile attrasse lo sguardo di Bloom, il quale attrasse quello di Steven? Al secondo piano, retro della sua, di Bloom, casa, la luce d'una lampada a petrolio con ombra obliqua proiettata sullo schermo di un avvolgibile, fornito da Frank O'Hara, fabbricante di persiane imposte, bacchette da tende e saracinesche, 16 Angel Street. Come delucidò egli il mistero d'una persona attraente e invisibile, sua moglie Marion, Molly, Bloom, denotata da un segno luminoso visibile, una lampada. Con allusioni o affermazioni verbali dirette o indirette, con sommesso affetto ed ammirazione, con una descrizione, con imbarazzo, con suggestività. Tacquero poi ambedue, tacquero, ciascuno contemplando l'altro in ambo gli specchi della reciproca carne delle loro sue e non sue facce simili. Rimasero indefinitamente inattivi. Su suggerimento di Steven, su istigazione di Bloom, ambedue, prima Steven, indi Bloom, nella penombra orinarono, i loro fianchi contigui, gli organi mintori reciprocamente resi invisibili da circomposizione manuale, gli sguardi, prima quello di Bloom, indi quello di Steven, elevati verso l'ombra luminosa e semiluminosa proiettata. Similarmente, le traiettorie delle loro, prima susseguenti, indi simultanee urinazioni, furono dissimili. Quella di Bloom più lunga, meno irruenta nella forma incompleta della penultima lettera biforcata dell'alfabeto, lui, che nel suo ultimo anno alle scuole superiori, 1880, aveva raggiunto il punto di maggior altitudine contro la forza coalizzata di tutta la scuola, 210 alunni. Quella di Steven più alta, più sibilante, lui che nelle ultime ore del giorno precedente aveva aumentato con consumazioni diuretiche un'insistente pressione vescicale. Quali diversi problemi si presentarono a ciascuno dei due riguardo all'invisibile udibile organo collaterale dell'altro? A Bloom, problemi di irritabilità, tumescenza, rigidità, reattività, dimensioni, igiene, pelosità. A Steven, il problema dell'integrità sacerdotale di Gesù circonciso. 1° gennaio, festa di precetto, sentir messe e astenersi da lavori manuali non necessari. E il problema se il divino prepuzio, l'anello matrimoniale carnale della Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana, conservato a Calcata, richiedesse l'iperdulia semplice o il quarto grado di latria accordato alla resezione di escrescenze divine, quali capelli e unghie di piedi. Quale segno celeste fu da ambedue simultaneamente osservato? Una stella precipitò con grande velocità apparente attraverso il firmamento da Vega nella Lira sullo zenit e di là della costellazione della chioma di Berenice verso il segno zodiacale del leone. Come il restante centripeto facilitò l'egresso del centrifugo partente? Inserendo il fusto di una chiave maschio arrugginita nel foro di un'instabile serratura femmina, esercitando una presa sulla testa della chiave e girandone l'ingegno da destra a sinistra, ritirando la spranga dalla bocchetta, tirando a sé spasmodicamente una porta fatiscente sgangherata e rivelando un'apertura per il libero egresso e il libero ingresso. Come presero essi congedo l'uno dall'altro sulle mosse di separarsi? Rimanendo perpendicolari alla stessa porta e su lati differenti della sua base, le linee delle loro braccia valedicenti incontrandosi ad un qualsiasi punto e formando un qualsiasi angolo minore della somma di due angoli retti. Quale suono accompagnò l'unione delle loro mani tangenti, la disunione delle loro rispettivamente centrifughe e centripete mani? Il suono dei rintocchi dell'ora di notte dal carillon della chiesa di San Giorgio. Quali echi di quel suono furono da entrambi e da ciascuno uditi? Da Steven. Liliata rutilantium turma circundet, jubilantium te virginum chorus excipiat. Da Blum. Ei o, ei o, ei o, ei o. Dove erano i diversi membri del gruppo che con Blum quel giorno, al richiamo di quei rintocchi, avevano viaggiato da Sandy Mount a sud verso Glasnevin a nord? Martin Cunningham a letto, Jack Power a letto, Simon Dedalus a letto, Ned Lambert a letto, Tom Kernan a letto, Joe Hines a letto, John Henry Menton a letto, Bernard Corrigan a letto. Pazzi Dignam a letto, Paddy Dignam nella tomba. Che cosa udì Blum rimasto solo? La duplice eco di piedi allontanantisi sulla terra sostenuta dal cielo, la duplice vibrazione d'un'arpa ebraica nel vicolo echeggiante. Che cosa sentì Blum rimasto solo? Il freddo dello spazio interstellare. Migliaia di gradi sotto il punto di congelamento o zero assoluto Fahrenheit, centigrado o Réaumur, le incipienti avvisaglie della prossima aurora. Che cosa gli ricordarono il carillon e la stretta di mano e i passi e il gelo della solitudine? Compagni ormai defunti, in varie maniere e diverse località. Percy Upjohn, morto in azione bellica, Modern River, Philip Gilligan, Tisi, ospedale di Jervis Street, Matthew F. Kane, annegamento occidentale, Baia di Dublino, Philip Moisel, PMIA, Edsbury Street, Michael Hart, Tisi, ospedale Mater Misericordia, Patrick Dignam, apoplessia, Sandy Mount. Quale prospettiva di quali fenomeni lo invogliò a rimanere? La sparizione delle tre ultime stelle, la diffusione della luce aurorale, l'apparizione di un nuovo disco solare. Era mai stato spettatore di questi fenomeni? Una volta, nel 1887, dopo una lunga seduta di charade a casa di Luke Doyle a Kimmage, aveva atteso con pazienza l'apparizione del fenomeno diurno, seduto su un muro, lo sguardo volto in direzione di Mizrach, l'Oriente. Ricordava egli i parafenomeni iniziali? Aria più pungente, un gallo mattutino in distanza, orologi ecclesiastici in varie località, musica avina, il passo isolato di un viandante mattiniero, la diffusione visibile della luce da una sorgente luminosa invisibile. Il primo braccio dorato del sole risorgente, percettibile basso all'orizzonte. Rimase egli. Con profonda ispirazione ritornò, riattraversando il giardino, rientrando dietro la casa, richiudendo la porta. Con breve espirazione riprese la candela, riascese le scale, si riavvicinò alla porta della stanza sul davanti, al pianterreno, e rientrò.